Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Radio 24 Reportage. Una domenica a Ostia di Giorgio Stamatopoulos. Diciamo che quest'anno per effetto del Covid è meglio rimanere in zona, pertanto rimarrò in zona litorale razziale a seguito di questa situazione. Quest'anno in Italia a causa del virus puoi viaggiare, non è che sia tanto sicuro e allora è meglio evitare. Quest'anno solo che sto a Ostia, perché per il Covid è logico che uno ha paura che se va in villaggio turistico e rimani lì con qualcuno che ha il Covid e rimani anche lì in quarantena, quindi si rimane vicino casa purtroppo. Con i suoi 10 chilometri di lungomare, uno dei più grandi d'Italia, Ostia è da sempre la spiaggia dei romani, che anche in questa estate particolare tornano ad affollarla. Una città nella città, Ostia fa parte di uno dei 15 municipi della capitale, uno fra i più popolosi, territorio di confine a sud di Roma, abitato da oltre 230.000 persone. Da qualche anno è in atto un programma di riqualificazione e di rilancio turistico del suo vasto territorio, che comprende un parco archeologico e diverse riserve naturali, come la tenuta presidenziale di Castel Porziano. Ma a rilanciare Ostia come meta estiva alternativa ad un viaggio, magari all'estero, oggi è soprattutto l'onda lunga del Covid, che ha diffuso paure e tolto certezze. Siamo sempre lì che abbiamo paura di accostarci, di salutare, tutto questo. Si sente il clima che c'è qualcosa che non va quest'anno. C'è meno gente, soprattutto negli stabilimenti. Secondo me perché hanno paura. Non rinuncio alle vacanze, ma non andrò all'estero. Andrai in vacanza quest'anno o te le fai qua le vacanze? Beh, penso che le farò qua. Pochi soldi quest'anno. Cioè si era organizzato per l'Inghilterra e invece si è rinunciato. Ci si spostava spesso d'estate. Quest'anno invece no, quest'anno siamo a casa. E al massimo venite qua? Sì. Sulle spiagge libere, l'amministrazione ha messo in campo diverse misure per garantire il distanziamento sociale, come spiega Giuliana Di Pillo, presidente del decimo municipio. Intanto la cosa positiva è che noi siamo riusciti ad aprire proprio il 29 maggio, cioè quando la regione ha consentito l'apertura della stagione abbiamo fatto di tutto per non perdere neanche un giorno e quindi abbiamo aperto proprio il giorno in cui si poteva, il 29 maggio. E è ovvio che le difficoltà ci sono, però questo territorio rispetto per esempio a Roma diciamo che sta lavorando, perché storicamente l'estate qui a Ostia sull'Arenile si riversano la gran parte dei romani. Abbiamo messo in campo come gestori di spiagge libere tutta quanta una serie di misure atte a contrastare l'assembramento, quindi a facilitare il distanziamento sociale attraverso delle paline sulle spiagge libere e che sono una sorta di indicatori di posizioni che fanno sì che le persone si possano disporre su tutta quanto l'Arenile, su tutta l'area. Ovviamente ogni spiaggia ha un numero massimo di persone che può entrare a seconda dell'area, di quanto è grande l'area. Il tutto viene regolato da una web app, c'è uno steward che all'ingresso registra il numero delle persone e registra la capienza della spiaggia, quante persone ci sono in quel momento proprio preciso. Uno che si deve muovere vede e si può regolare. Se il centro storico della capitale, tra serrande abbassate e alberghi chiusi per l'assenza di turisti stranieri, appare deserto, Ostia può almeno contare sugli oltre 3 milioni di romani che per fuggire dal caldo, in mezz'ora di macchina, raggiungono il suo litorale. Ma anche qui la fine del lockdown ha lasciato un'atmosfera rarefatta, un clima sospeso. Fra quarantena e maltempo, la stagione si è praticamente dimezzata, così come l'affluenza, che torna a livelli pre-Covid solo nei fine settimana, raccontano albergatori, ristoratori e gestori degli stabilimenti balneari. È un'estate particolare, per adesso ci stiamo difendendo, diciamo. Lettini giornalieri, ombrelloni vanno, lì il calo è un po' meno del 50%, però non nascondo che insomma, ecco, alla fine è un poco di più che nel totale fa fa poco. Diciamo che abbiamo notato un calo importante sul discorso dei giornalieri, soprattutto in mezzo alla settimana, proprio molto importante. La domenica, col sole, con le temperature, stando a luglio, la gente lo va a cercare l'ombrellone, ringraziando Dio, perché sennò altrimenti non c'avevamo senso di stare qua. Abbiamo un mese e mezzo di lavoro, dopodiché bisogna aspettare un'altra estate per poter ricominciare a lavorare e a fatturare, quindi ci sarà bisogno di fondi. E speriamo che a livello nazionale tendano ad abbassare almeno le tassazioni fisse. E anche se tu non apri la porta, hai comunque l'AMA, l'IMU, l'affitto, i canoni. Senza contare anche l'IVA al 22% che scontiamo solo noi come balneari. Gli alberghi hanno il 10% di IVA. In Europa hanno addirittura il 4% in qualche località, quindi insomma anche quello è un costo grande. La nostra concezione è che uno stabilimentino piccolino, di fisso solamente di demanio, sta intorno alle 35.000 euro. Poi c'è l'IMU, che ne sono altri 9, poi c'è l'AMA, che ne sono altri 24, e tu puoi decidere di fare o non fare nulla, tu quelli li devi pagare, punto. Mancano gli stranieri, tutte le strutture alberghiere sono quasi completamente vuote, quindi il flusso estero manca tanto. Si lavora con le persone del territorio che stanno attraversando anche loro, come tutti quanti, un momento di particolare difficoltà. Stanno molto più attenti, è una spesa un po' più oculata. In questa estate di crisi post-pandemia, pur concedendosi una giornata di mare, per molti l'imperativo resta risparmiare. E così, pochi o tanti che siano, i bagnanti che si riaffacciano sulle spiagge libere negli stabilimenti dell'Arenile riscoprono la storica abitudine di portarsi il cibo da casa, diffusasi tra i romani fin dal dopoguerra e raccontata anche da film come Domenica d'Agosto, girato da Luciano Emmer nel 1949 proprio sul Lido di Ostia. Che magna tanto. Dammene per piatto a me, sto partendo a te. Ma tanti, vedi? Beh, come so? Buoni. Vabbè, il fiasco è vuoto qui. Oh, ma che, te sei addormita? Passami quel fiasco. Non c'è altro? La frittata. Mai del tutto scomparsi, quelli che l'ironia popolare bollò subito con l'appellativo di fagottari, oggi sono sempre più numerosi, anche se più discreti e forse più salutisti di Aveninchi o della famiglia Passaguai. Quando ero piccolo i nostri genitori portavano tipo i gnocchi al mare, era una cosa allucinante, no? Adesso ci si porta un po' di frutta, i gnocchi no, però ce lo portiamo sempre da mangiare, come fanno un po' tutti qui. I famosi fagottari, no? Parecchi portano il pranzo al sacco, non li vediamo perché siete le nostre. Scondono bene, però non frequentano le zone di ristorazione. Sono tornati i fagottari, noi siamo i primi. Da una parte non se ne sono mai andati, nel senso che prima lo facevi e magari due o tre volte alla settimana, le restanti 3-4 volevi lo spaghetto alle vongole, cercavi la cosa diversa o comunque il pescetto, quello che sia. Oggi c'è molto più attenzione. Ovviamente, purtroppo per loro, ma ovviamente per noi, perché comunque ci ha colpito a tutti, ognuno in modo diverso, ogni categoria in modo diverso, ma ognuno ha riportato dei segni. Ma tutta questa gente che ancora sta in cassa, cioè è chiaro che il clima, no, è quello che conosciamo tutti quanti. La preoccupazione è anche nel ritorno dell'inverno, proprio in generale a livello economico. Cosa importa se sognavi in Puerto Rico? Ma se restiamo insieme, se non paradiso anche Oscarino, brucia il sole in ufficio che... Noi non abbiamo bisogno di turismo, noi ce l'abbiamo a 20 chilometri, diciamo 3 milioni e mezzo di romani. Il problema di Ostia è che non siamo riusciti noi a diventare un comune autonomo. Purtroppo questo è il decimo municipio e facciamo parte di Roma. I problemi di Roma sono immensi, sono incredibilmente irrisolvibili perché è talmente grande la città, è talmente grande il comune che non puoi gestirlo. Nacquero le circoscrizioni perché dovevano dare l'autonomia amministrativa ed economica e per staccarsi da Roma in alcune cose non ne hanno mai data. Perché il potere è rimasto sempre in Campidoglio e allora siccome Ostia è il decimo municipio, soffre come soffre il mare di Roma, soffre anche Ostia ed è un peccato mortale. Giuseppe Ciotoli, 83 anni, storico esercente romano costretto dal Covid a chiudere le sue sale, ma che a Ostia ha appena aperto il più grande drive-in in Europa, con un investimento da circa 170.000 euro, torna su una delle questioni mai risolte e rimaste aperte anche dopo l'introduzione della città metropolitana, quella di una maggiore autonomia amministrativa e finanziaria per gli 85.000 residenti del litorale romano. A rispondergli è la presidente del municipio, Giuliana Di Pillo. Credo che la buona amministrazione sia poi quello che conta fondamentalmente. E noi con l'amministrazione Raggi siamo riusciti ad ottenere il riconoscimento di qualcosa che già c'era ma non era mai stata riconosciuta. Per esempio il decentramento del verde che questo municipio aveva già, ma nessuno mai aveva dato finanziamenti per questo. Quindi io credo che un buon lavoro per il riconoscimento di una autonomia di tutti i municipi, non soltanto del nostro, perché insomma ogni municipio ha delle caratteristiche a sé, questo ovviamente c'è il mare, c'è una caratteristica unica, però con un lavoro fatto bene si può ottenere veramente tanto. Siamo riusciti a portare avanti molto lavoro. Diciamo che si sta lavorando, anche qui abbiamo fatto una commissione ad hoc per cercare di raggiungere proprio un modello di quello che può essere l'attuazione della città metropolitana, come dovrebbe essere, ma una cosa che è rimasta sempre un pochino appesa. Sempre in bilico, fra degrado e desiderio di riscatto, questa vecchia città portuale, fondata agli albori dell'antica Roma sulla foce del Tevere, che solo nei primi del Novecento ha scoperto la sua vocazione balneare, oggi non si rassegna a vestire il ruolo di periferia dormitorio della capitale, insidiata dalla criminalità e dalla cementificazione. E almeno l'estate, anche nell'era del coronavirus, trova le sue ragioni per guardare al futuro con ottimismo. Sai che io abito Ostia da tutta la vita e io ho riscoperto Ostia adesso col Covid, lavoro a Roma, no? E quindi in questo periodo ho comunque ricominciato a frequentarla e Ostia secondo me è meravigliosa. La pineta, il mare, la possibilità degli aperitivi la sera, fai lo smart working, alle 6:30 recuperi la vita, esci, ti fai un aperitivo, ti fai un bagno al mare, è una cosa meravigliosa, è cambiata la vita completamente, con una tragedia però è cambiata la vita in positivo. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.